specchie! Sì, drammi! Che tavolo, non può essere sonnato, no? Tu, questa porta che ha già tu pure te ne stai andando in letargo sopra, buonasera! Sì, buonasera! Aspetta, uno può usare la luce subito, interrompimi. Ecco, da stare a sera già mese, cazzo, buh! Cazzo, non so con Graziano, no? Ah, chiaro, grazie a me, rancura. Sì, dai, aspetta, ti si cazzo a mangiare una banana, ci aspettate per mangiare una banana. Sì, cazzo, buh, buh, la banana ci devi mangiare. Ciao, coso mi, grazie mia! Non mi interessa niente, dico! Mi sono sentito due GC, in più, e in basso giusto! E pensa era così, Edo! Andemmo dove andemmo! Per carità, ragazza! Ora! Sembra un faccio lo stampeggio, dai! Bocche d'occhi, piatti di rusurrone, piatti. Gioco, ma se ne devi stare un po' carito. Ha visto finché la farlucci a breccia che respira, ti disfatti a modo suo. Non lo gioco, no, se devi fare a modo suo. A mai ti ha detto. Ti disfatti, se io morirei, ti raffo, morirei trovi. Ah, si può andare a retra a riposarsi. Ah, c'è già di tutto. Vai in mano a farci l'altro, io. Ah, che così. Peggio baello. E io sono tranquillo. Basta con due, c'è un po' tranquillo. Boh. Oggi andiamo a farci un vaccino. Lo sono andati già chiaro a freddo. No, bisogna che uscito. Statemi un po' quello freddo. Freddoroso, Tu mare è freddoroso. Tu marroso, non fai hai cazzicchi un poco. No. Ha detto che non ricassi più così. Fatto, è passata mai. E sono qui, e per cui, abbai di Aedo. Fatto. Abbai di Aedo. C'ero macchino, l'ho sentito, vai. E mi pare da carino, non intendo più. Mi pare da domenica che non intendo. Sono sempre a parlare, sì. Non l'hai dato, forse a forci questa cosa, ed è puntato con il telefonino, va. Non penso, no, che non se ne ha posto. Forse ha fatto bene, forse ha fatto bene. Hanno mancato il capo con il telefonino. Fate così, meglio così. Allora, pare mi ha passato Luca. Luca e Luca, tutti e due. Dice, beh, dimmi, se me ne fai sentire che a me non mi interessa brutto questi cose. Sono passato tutti e due. Allora, me la faccio sentire ora, la sera, no. No, se ti dico conto. Fatti dei gusti, Di nocchi, di io che so. Fatto la democrana, sentimo, si fa verso in sentimo. Si vede per più gusto. Andiamo dove andiamo. Dobbiamo andare per fatto. Hai ragione, dimmi una cosa, com'è questa radio? È buona, è abbastanza buona, anda bene. Ok, allora sta andando bene questo qua. Quattro fatti, va bene. Perché lo stai cambiando? Ogni tanto mi faccio andare, hai ragione, so. E se no come fai? Io ti darò un mini, e da voi che c'è per un cassetto l'abito, pronto a mai quel giro. Allora, chi c'è a funzionare sempre, dai. questione, bisogna buttare la partita e basta. E che la colpa più, boia, per fare il saluto a Settone, la boia la sta colpa chi fa. In rottamazione. Eia, eia. Che cosa? Beh, arriva a sera, è entrato, ma è stato fatto, Boroni. Fatto 5 minuti a voi stancato. Io se, ieri sera stavo parlando al PMR, dopo mi sono sentato che ero venuto una cosa, poi mi ha chiamato mia moglie che è andata a pigliarmi i miei, che vendeva. Piano piano, allora sono rientrato, gli altri tutti serrati. Infatti la concedi sempre. La concedi, però la difesa a Bacchizio. Si va a salvare o si va a vado. Però è lo sotto a concedi a chi per avere a ieri non puoi entrare. Oh, non la diagame va a si sta mettendo in giro su me. C'è la mezz'è di oggi. E per cui qualcosa all'altra così che fa cavalura. Infatti. Sì, allora io ieri sera giudicio che la vendeva, io giudicio di un camminelli, sono salito da mia figlia e poi sono parlato che la scontrò di no che la vendeva. Ah, hanno seguito un rato, non verrà più nessuno. Io voglio pure di scuola subito, guarda che ho macchina di scuola, ma ci sono di muro, per cui come non metto ma con capire, boh, mi pare che è entrato un burgoso marino, 5 minuti è entrato alle mattina, però è appostato io, capito? Non ho via gara in fare già. Che non si la gara, ma con manco rugoso io accendo, che non ho una giugare. Ma io accendo, mi metto il fastidio, che a queste volte mi abbasso il volume. E abbendo la televisione, capito? Ma di voi ci faccio un film. Ma vedi a vedere la fese uno e l'altro, capito? Infatti già è così. Ma di voi che abbasso io pure, ma abbendo la televisione. Ma è la mia cazzo, io. Ma questo voglio, ho detto a pazienza, cazzo. Allora, ora sono salvo le malattie, sono un po' strano, guarda, guarda come ha trovato qua il fattore, io non leggo, guarda, non si può immaginare, non la mia gara, e lui che ci ha stato sulla macchina un camminato, molto molto, ma mi sono rinforzato stamattina, va. Meglio così, anche passato un poco di dolore, buro. Beh, risolvi a vivo sotto, ma non come prima, abbastanza. Anche prima, manco di prati, vogliamo via. Tu fa la bara, ero gozzo, la brutta, stava a capo, tanto lo capo quasi a mano. Allora, guarda a dirmi, ho passati, però poco a poco vi do sempre, se voi mi mettete il braccio, mi fate male, e per cui... Oggi sono andato lì a Pratamona a fare l'ecolofres, e l'ha fatto con quello del tiro, no? Ma poi mi sono passato 5 minuti o più, cazzo, a capogiro, lui diceva che camminava, no, ma facciamo già 3 tiri, e gli hanno passato a buio. Mi devo sì. Perché hanno bisogno di dolore, perché sta un po' gare d'ugagli. Ma adesso, ma sono abbassato però male, prima non guardo un altro problema, forse abbiamo messo un po' di prassi, cazzo, boh, ma non ti guardo male, era sempre fisso di dolore, sempre fisso, mentre in questa vaga non so bene, sono più tremendi, per cui, sì, sono pure, e quindi come che la posizione è un po' durata, capito? Ma ti fate a me, perché mi sono dolore. Allora devo muovere le mani, i camminelli, le dita e fa farmi un bassa piano piano. Ma va per aggiungare, ma poi mi viene il dolore, mi viene il matesso. Il dolore, mamma mia, per carità, cazzo. E ti sanno peggio si diventa, capito? Vecchiai a Carrogna, aveva una stessa qua e messo tutti le malagiuzze a piccola, e per cui devi svapurare e tirare avanti la bella meglio, su puttani, ti va su puttani giù. Purtroppo sì, purtroppo sono così. Io domenica ero la dottoressa e gli dico, ma perché non si opera? Perché è peggio poi convivere con il dolore, convivo anche adesso. Quindi, a voglia. Non bastava tutti questi frattori di fino a via. Cado, mi ha detto oggi al professore quando eri privati. Ma posso, io mi sento più bene. Dice, ma non si crede che lei dice abbia finito, no? Dice, di sopportare i dolori. Ma non avanti è bello. Noi lo mandiamo a casa, però dice, si è riservato a fare nulla, nulla, nulla, nulla. Movimenti strani, eccetera. Invece mi sono capisendo in questi posti, allora magari a voi il risultato è figlio, capita, ha ragione. Allora mentre già me lo detto a me, tutti si frattura, allora mi sono capito il po'. Cacca, ma sono appiccicata, c'è a me un ragione del mio, se no me la metto, cacca. La mariconia di Venega. Non so così. Non so cosa vuol dire avere dolori, ma pazienza, piano piano, andiamo ad avanti. Per carità. Aspetta, signor Bacchisio, tu, Bacchisio, tu, che fece una bufera. Tu... Ah, mi pare no, non attende nemmeno questa sera, non si attende, attende il dato. Cazzo, chi ne ha, chi ne ha bene, chi ne ha. Cosa vuoi fatto? Guarda, la bella meglio, guarda. Ogni tanto bisogna, anche la si fa fatta, pure, però. Ah, ma qua mi ha fatto paura, va. Io c'è la gente che mi chiami a mia moglie di andare a pigliare. Ma se non lo so, se mi figlio era un asilo, ha finito. Se non lo dicesse, ma così è appena, no? Vabbè. Anche quello bisogna fare, insomma, lo richiami a me e dà ragione. Bisogna andare, insomma, bisogna andare. Non ha pazienza di un milionino. No, non ne hanno. Solo io ce l'ho. Quella è la pazienza. Oh, mia moglie ce l'ha la pazienza. Ce l'aveva la pazienza. Ce l'ha fatta scadere, donna. Avvia la 500. La 500 aveva lì, no? La nuova 500. Ok, allora, travagliendi. La farà fare l'agraria, no? Trazza l'agraria, messo la macchina, frena, fare così installata la macchina, che era l'ughiaino, è slittato, si colpa allo spigo con la facciata, è spaccata in due, c'è di cos'entro. Fa la voce, allora così fa più niente di macchina, e non ha figato più, Vuol dire che non andava più. Non andava più, dici, in macchina. Non ha avuto più intenzione di dire, ma dice non l'ha preso, non ne prendo più macchina, boh, dice. Non mi dice, ma con la faccetta ha rinnovato più, proprio ha pigliato un asciutto malamente. Cazzo, è barrata la macchina. Cazzo. Ha slittato, ma la macchina se n'è andata a chi fa un gaino, capito? Infatti, quando è così, c'è nulla da fare, quando c'è il gaino è meglio, striscia e buco. Allora, da lei a facciarsi a regalire cosa si fa. A più basso, a voi, gatto, non si vede. Ora di convento. Siamo buttati la mattina, siamo buttati, non riceviamo più. Fa domani a Porto Variabile a Fuscio. Pioggia, nuvola e illusori, è maestrale. Ah, domani? Domani è messo variabile, c'è la pioggia, la nuvola, illusori e duro vento di maestrale. Domani, no, domani non giù a Ballucco. Ma penso domani, che vorrà fare la pazzamona, che fa la visita etta. oggi che ti ho fatto dal da domani. Vabbè, sono andato. Oh, ma Roberto, bisogna uscire. Quando la mattina di questo... Ma la battamone, che leva. E io che la bici, se mi arrivi a Sassari, guarda qua, si è passato, ma lei ha i carrelli, a Diocchio la prendi leva, non si vedia, camminando non si vedia. E poi una cattaccia di macchine, cattivi, attenti, la buzi, piano, tutti piano piano a chi lo vediali. Quando è così si cammina piano, devi andare piano piano, devi andare. E poi è cominciato l'epa, allora infatti me la brucca non finita, dai me la cupa della voce, dai io ho cominciato a ripire pure i libri, fino a metà Sassari e altri profienti, era di pulire. Ma se c'è Plattamona non finirà, era uscito la Plattamona. Dove si era tutta questa parte l'acqua? Infatti, dove c'era la nuvola era tutta questa base. Infatti la base io ce l'ho, chiedi, gatto, si ha fatto mai ricchi, è stata diluviando, ma quando diluviando fa ma era, senza cos'è, non si vedia, si può mangiare e gli si zone come c'era. Infatti ha cotturato un po', io da sono arrivato qua che erano 10:30, poi a mezzodì a Giaricataedo e poi non sono più uscito. Da che sura ero sempre in occhio, mi vediamo che sta piovendo forte. Ehi, hai cominciato questo mese in barriere, un mese, una cosa del genere. Da questi bei immaginati, poi zorra. Anzi, se la vai di accettare il cibo e prendeva. E mai da la parte che c'è giusto qualche disagio, si rubiva da chissi però, si sentiva dentro le lenti e la pelle in questa zona, ha fatto bene, un bel disapporale ha fatto. Quando è così. Quando è così, bisogna rimanere calmi, bisogna accendere piano piano, e si arrivi. Piano piano sempre andando. Ehi, hanno brivido. Cazzo, adesso sta portando anche lei, ma chi sta strano, sta fuori, Cazzo, non ci fossi. Ma tu l'ha preso all'altro, non li portano anche la strada, cazzo. Boh, che vedi che ha parlato, no, e la macchina che mi sono rifugiati, capito? Ah, nella strada l'hanno pagato ne fa. Allora, è già chiesa che l'hai fatta. Ai, farendi chi so, Non l'hanno esaporata ancora. Oh, sì, ancora. Non è posto anche lei, ragazza. Cazzo, chi la rallentava, sta a passare in fretta. Anche che io piandendo è più credo che da segni. Ce n'è che non si apre, dimmi uno del daffano. Chi sta proprio ripigliata, fatta bene. Cazzo, tu no. Si può stare, troppo, non dritta. Non fare, capisco, di sono rifugio, l'affallamento, la parte accettata e è chiaro che mi sono rifugio. E quando faceva, io mi sono fatta per la casa. E tu non stai attenti, mi si sono rotti forti. È pericoloso, me. Infatti, pericoloso, sì. Vabbè. Speriamo che ci raccontiano di subito. Va. Senti, dai, a quattro consigli, almeno ci sorreggo in strada, però... No. Però, sai com'è, ci sono un bel ratatouille, mi do. Infatti è così, purtroppo. Manco da sai, fa da fine da sagarrira, è già tutta infasciata. Dai, era 2 anni, cazzo, che era le femmine, cazzo. A mocca la buccia è fatta bene, però, mi pare che io già... Tutta terra battuta, tanto faceva da voi che sono tutti sotto, magna, e la voi si siete fatta tra. troppo sì. Aiuta per essere rientrato, signor Battisio. Attenzione, signor Battisio! Non da fa. Deve essere zafferato, dai. Deve essere zafferato, se no era entrato. Hai visto, la macchina era entrato. Da 5 minuti a salutare si è andato. Così che però... Ah, ma entra con la idea, è presto. Senta, ma chi è? Così che è chi sta ancora? Io andare in vendita, va. Sì. Sì, sarà per dire qualche cosa, ma se la sta finendo. Sì. Lascia per dire qualcosa, io te la faccio sentire. Capire. Aspetto di tutti che carico la stufa che è quasi finita la pelle prima che si chiudia. Vai, vai, io sono qua. Ciao Marisa, se l'ascolto sto andando a prendere la signora, ci sentiamo dopo. Ciao Maria, attenzione, Bacchigio. Ciao Maria, Bacchigio. Bacchigio. Ciao Maria.